In un paese che ha pochissima conoscenza del suo passato, di cercare di correggere questo che è un errore enorme. Immaginate se ciascuno di voi dimenticasse la propria storia, l'infanzia, i genitori, quello che è stato, quello che è successo alle scuole. Non saremmo nessuno. E anche un paese non è niente se non riconosce il proprio passato. L'incontro di oggi vuole cercare di colmare una lacuna che sento innanzitutto come una mia lacuna. Io ho sempre amato la storia, l'ho insegnata da tantissimi anni, però come dicevo al professor Labanca, sulle colonie, sull'attività, sull'impegno coloniale dell'Italia, mi sono resa conto, soprattutto leggendo questo libro del professore, poi se qualcuno vorrà, ci sono altri libri del professor Labanca che è possibile anche acquistare. Mi sono resa conto leggendo questo libro, devo sedermi, per forza, che avevo delle lacune e dei buchi enormi. Cosa significa colonialismo italiano? Dicevo Dovali, Adua, l'Etiopia, la Libia, ma tutto molto confuso. Mi è bastato leggere l'introduzione del libro del professor Labanca, che mette in fila una serie di date: 2011, guerra di Libia, 2021, la crisi dell'Italia liberale, 2031, il consolidamento del partito fascista e del controllo del partito sull'Italia, 2011, la guerra, l'uccisione di Gheddafi e questa recentissima guerra, cioè tutti una serie di date mi hanno permesso di capire che, come dice il professore e come spiega, l'attività coloniale dell'Italia non è stata episodica, è stata trentennale, più che trentennale. Ma di questo parlerà il professore, io vi dico solo che è stata una pagina oscura della nostra storia, avviata, credo, inizialmente, io nel primo libro che ho letto in quest'ambito, è stato il professor Del Boca, e poi le sue ricerche. È rimasto oscuro quanto è successo, permettendo questa oscurità di costruire, per esempio, il mito dell'italiano, per gli italiani brava gente, che è un vero mito, perché in realtà l'Italia, come tutte le altre potenze coloniali, ha commesso cose orribili nella sua attività coloniale, magari non solo cose orribili, ma sicuramente ne ha compiute. E non abbiamo fatto i conti con questa storia, se, come ricorda sempre il professore, ancora nel 1994 un politico importantissimo in Italia ha potuto dire che Mussolini è stato il più grande statista del secolo. Cioè, ci sono tante cose da pensare, ma io concludo qui. Il professore è il massimo studioso adesso di storia delle guerre, che non è molto praticata, credo, e di storia delle guerre coloniali in particolare, non solo italiane tra l'altro. Insegna all'Università di Pisa, ha al suo attivo una grandissima quantità di studi e di ricerche, è sulla storia militare, sulla storia dell'espansione coloniale, è direttore di una rivista, l'Italia Contemporanea, anche, no? E recentemente ha preso il premio Acquistoria per un libro che c'è anche là fuori, sulla marcia verso Adua. E lascio la parola al professore, spero che voi abbiate poi molte cose da chiedere e da intervenire. Grazie. Io non so se una cartina come questa che abbiamo trovata, che voi vedete alle mie spalle, una cartina come questa dice qualcosa a persone che voi trovate per la strada, persone che non hanno studiato storia, persone che non hanno fatto il liceo, l'istituto che voi state frequentando. che cosa lega questi spazi tra di loro? Intanto voi vedete, l'Italia è un piccolo punto a livello mondiale, sta dentro l'Europa che per alcuni secoli ha dominato il resto del mondo, ma ormai, mi dispiace dirlo per i vicentini, per gli italiani, per gli europei, l'Europa conta e conterà sempre meno nel vostro futuro, nel prossimo futuro, rispetto ad altre parti del mondo, che sono l'Asia, la Cina, l'India, che sono anche l'Africa, il Brasile, l'America Latina. Quindi quel piccolo punto, l'Italia, dentro un punto un po' più grande che l'Europa, per qualche secolo però ha dominato il mondo, esattamente dal 1415, da quando gli europei escono dal proprio suolo, escono dall'Europa e cominciano a invadere, conoscere, colonizzare, conquistare il resto del mondo. Il Portogallo inizia in quella data, un'altra data forse vi è più nota, il 1492, la scoperta dell'America, ma la scoperta da parte degli europei, gli americani la conoscevano benissimo, la propria America. E dal 1415, dal 1492 arriviamo praticamente sino a ieri l'altro. Nel 1998, qualcuno di voi è nato qualche anno prima, nel 1998 Hong Kong, un altro piccolo punto ma economicamente molto importante in Asia, è stato reso indipendente, era per lunghi secoli dominio britannico. In queste due date, 1415 o 1492 da un lato e 1998, in questi cinque secoli ci sta la storia dell'espansione coloniale europea. In questi secoli, segnatamente sino alla seconda guerra mondiale, soprattutto l'Europa ha dominato il resto del mondo. Nel futuro, nel vostro futuro, non sarà più così. Demograficamente l'Europa è sempre più insignificante, economicamente conterà sempre meno, anche se Vicenza loro, anche se l'Italia ha la Fiat e adesso anche un pezzo della Chrysler, diciamo così, tendenzialmente il nostro spazio economico si sta fortemente restringendo. Ma pensate, questa è storia, no? Un qualche cosa che non tornerà mai più, ci auguriamo, che un pezzo piccolo del mondo, l'Europa, conquistava e dominava il resto del mondo. Questo era il colonialismo. Allora, all'interno di questo quadro molto generale, se voi uscite per strada, voi sapete tutto, lo so, voi avete professoresse, professori di storia, vi hanno già insegnato tutto, perché quindi voi già conoscete benissimo questa materia, ma se voi andate in giro dite: ma cos'è il colonialismo? Quali sono gli estremi cronologici del colonialismo europeo? E soprattutto, l'Italia è stata una potenza coloniale? Molti non sapranno cosa rispondere. Molti diranno: no, ma no, gli italiani sono bravi, sono buoni. Sì, gli inglesi sì, avevano un grande impero coloniale. Molti si ricorderanno di Colombo, quindi della Spagna, quindi dell'impero spagnolo portoghese, ma chi si ricorda oggi l'impero coloniale francese, olandese, danese, tedesco e anche quello italiano? E invece questa storia io credo sia un po' importante. Vedremo alla fine, è importante anche per oggi, non solo per lo ieri, ma è stata una cosa importante. I vostri manuali di storia. I vostri manuali di storia parlano un po', non tanto, di questa vicenda, parlano sì del colonialismo europeo, dicono, ma del colonialismo italiano non vi aiutano molto. e già guardate che parlano oggi quelli manuali che usate voi molto di più del colonialismo italiano di quanto ne parlavano i manuali di 20-30 anni fa, quelli su cui ho studiato io, o addirittura quelli su cui hanno cominciato a studiare gli studenti della Repubblica Democratica Italiana, fondata nel 1945, dopo la Seconda Guerra Mondiale, dopo la Resistenza. Voi sapete che fu in quel periodo lì, nel 1943, che l'Italia fascista, perdendo la Seconda Guerra Mondiale, perse anche tutte le colonie. Fino a quella data i manuali scolastici del tempo parlavano del colonialismo, glorificavano le conquiste italiane, ma nel 1945 quelle pagine furono strappate. Nei manuali pubblicati nel 1945, 46, 47, le colonie, che pure erano presenti nei manuali scolastici di pochi mesi, di pochi anni prima, scomparvero. Perché? Perché l'Italia ha perso le colonie e quindi non c'era più oggetto di insegnamento. Allora è evidente che i manuali su cui hanno studiato i vostri genitori, i vostri zio, addirittura i vostri nonni, non parlavano di queste materie, è evidente che oggi non se ne parli più e se ne sappia poco. Se ci sia quindi un silenzio, ma il fatto che non se ne parli non significa che non ci siano delle eredità, dei concetti, degli stereotipi, dei meccanismi che sono passati da questa lunga storia, che è una storia di 5 secoli per l'Europa, ma quindi una storia importantissima, che da questi 5 secoli non sia rimasto niente, e invece sono rimaste molte cose. Vi cito una ricerca di una antropologa che ha studiato non gli africani, gli asiatici, gli amerindi, gli australiani, no, un'antropologa italiana che nel 1997 ha studiato i bambini italiani. Cioè, voi ormai siete grandi e vi sentite grandissimi, pensate a dei marmocchietti delle scuole elementari che negli anni 90, nei primi anni 90, sono stati studiati da questa antropologa italiana che si chiama Paola Tavez. Che cosa studiò? Come studiò e perché questo ha una connessione con il colonialismo italiano? Perché questa antropologa fece scrivere a questi bambini delle scuole elementari e dei primi anni delle scuole medie dei pensierini, dei piccoli temi. L'oggetto di questi temi ne ha studiati 9.000, quindi è un campione molto piuttosto ampio. Il soggetto di questi temi era uguale per tutti ed era: se i vostri genitori fossero neri. Voi capite che all'inizio degli anni 90, quando l'Italia ancora non era un paese di immigrazione come oggi, questa per dei bambini che in teoria erano bianchi, nella grande maggioranza erano bianchi, era una domanda un po' scioccante. Non perché ci sia niente di male, perché il colore della pelle non cambia niente, bisogna vedere cosa c'è nella testa. Spesso nella testa dei bianchi, come dei neri, dei gialli, dei verdi, dei rossi, dei blu, c'è qualcosa che non funziona, ma lo vedremo alla fine. Ma per un bambino che per tanti anni, finito il periodo coloniale, quando i gialli, i neri, i rossi, cioè gli asiatici, gli africani, gli indios, gli indiani d'America, erano normale vederli nei paesi coloniali. Quando finito il colonialismo, l'Italia perse le colonie, per 40 anni si vedono molti meno africani in giro per l'Italia. Questa domanda a un bambino poi dell'elementare può scioccare. E cosa scrive il bambino dell'elementare? Non quello che ha studiato, perché non ha studiato niente su questo argomento. Ripete quello che sente in casa. Quindi l'antropologa fece una ricerca molto intelligente, studiando i bambini, studiava le loro famiglie. E cosa usciva da questi temi di questi bambini? Questi pensieri di qualche ragazzo che potrebbe essere vostro amico, no? Di qualche anno più grande di voi, di pochi anni più grande di voi. uscirono i peggiori stereotipi coloniali, uscirono le peggiori cattiverie di chi non aveva capito che l'umanità è una sola, indipendentemente dal colore della pelle, e che le persone vanno giudicate per quello che hanno nella pelle. Quindi l'antropologa Paola Tabet nel 1997 scopre, studia, conferma, perché gli studiosi lo sapevano già, che pur essendo finito il colonialismo italiano nel 1943, cioè 50 anni prima, gli stereotipi coloniali continuano ad operare. Allora possiamo dire che di questa lunga storia di 5 secoli, di mezzo millennio, cui l'Italia ha contribuito, come vedremo, in più piccola parte, però di cui ha respirato l'humus, ha respirato l'atmosfera di questa lunga storia di mezzo secolo, di questo millennio, rimane tanto che ancora, di cui ancora non ci rendiamo conto. Allora, se questo è il quadro, andiamo a vedere un po' i fatti. Abbiamo già accennato che il colonialismo europeo è una storia di mezzo millennio che si è espanso su tutti e cinque i continenti, sia sull'America meridionale, sia sull'America settentrionale, sia sull'Africa, sull'Asia, persino sulla stessa Europa, perché gli inglesi, ad esempio, avevano conquistato l'Irlanda, estendendo a lungo anche il nord Irlanda, come una potenza coloniale. E anche l'Italia dell'unità 1861, l'Italia che va alla conquista del sud, l'Italia piemontese che piemontesizza tutto il sud, guardava spesso ai meridionali come a soggetti coloniali. E anche qui chi ha studiato gli stereotipi vede che spesso gli stereotipi, chiamiamoli così, anti-indigeni, anche africani, anche asiatici, anche America Latina, erano gli stessi degli stereotipi anti meridionali degli italiani della prima unità d'Italia, e almeno non solo di questo. Quindi i fatti di questa grande storia durata mezzo millennio, l'Italia partecipa in piccola parte, perché voi lo sapete, si unifica nel 1861. I piccoli stati preunitari non avevano la forza di avere addirittura dei domini extraeuropei. Quando l'Italia si fa una nel 1871, c'è qualcuno in Italia che dice andiamo a conquistare l'Africa. Ma tra il 1861 e la fine dell'Ottocento, già molti di quei territori che voi vedete nella carta alle mie spalle erano già posseduti dagli spagnoli, dai portoghesi, dai francesi, dagli inglesi. L'età dell'imperialismo, l'età della grande divisione, in particolare dell'Africa, che era rimasta la meno occupata nella seconda metà dell'Ottocento, l'età dell'imperialismo vede partecipe anche l'Italia liberale, ma quando, come dire, la torta del mondo era già stata mangiata da altre potenze, perché dal 1415, dal 1492 i grandi imperi erano l'impero spagnolo, l'impero portoghese, ormai un po' in decadenza, e soprattutto l'impero inglese, un impero su cui non tramontava mai il sole, un impero tenuto dalla forza militare della Gran Bretagna e soprattutto dalla forza della rivoluzione industriale inglese, che aveva messo in mano a Londra lo strumento per guadagnare dal resto del mondo e governare. Quindi insomma, 1871, in una torta già ormai divisa e in buona parte mangiata, anche l'Italia liberale, che aveva tanti altri problemi, comincia a imboccare la via delle colonie. Nel 1882 un piccolo villaggio del Mar Rosso, cioè qui sostanzialmente, piccolo villaggio che si chiamava e si chiama ancora Assab, in quella che poi sarà la Eritrea, quella che oggi è la Repubblica Eritrea, piccolo villaggio nel 1882 diventa proprietà dello Stato italiano. È il primo tassello di un impero coloniale che prevede nel corso degli anni l'Eritrea, cioè uno stato, una colonia, poi dopo uno stato sulle coste del Mar Rosso, la Somalia, girato il Corno d'Africa di fronte all'Oceano Indiano, 1889 gli italiani in Somalia, poi la Libia, 1911, la Libia sul Mediterraneo, una grande colonia, ma soprattutto un grande deserto. E voi sapete, nel 1922 l'Italia liberale collassa di fronte alla violenza del fascismo, si instaura tra 1922 e 1943 in Italia un regime fascista, e nel 1935 il fascismo aggredisce l'Etiopia, grande stato sempre nel Corno d'Africa, e lo conquista. Andrebbe ricordato per la precisione anche altri piccoli scampoli dell'impero coloniale italiano. Sui mari della Cina, una piccola cittadina, Tianjin o Tianjin come dicono i cinesi, è conquistata nel 1900 all'interno di una spedizione internazionale, oggi la chiameremo una spedizione internazionale di pace, ma è una spedizione internazionale sì di pacificazione ma anche di inizio di conquista. Nel 1900 gli italiani guadagnano una baia, la baia di Tianjin in Cina, e poi nel 1911, insieme alla conquista della Libia, conquistano alcune isole del Mar Egeo tra la Grecia e la Turchia, il Dodecaneso. Sono piccole isole ma in una posizione strategica interessante. Dobbiamo ancora aggiungere nell'impero coloniale italiano l'Albania, nel 1900, durante la prima guerra mondiale occupata e poi nel 1939 annessa allo Stato italiano, allo Stato fascista. Poi, volendo, dovremmo aggiungere altre quasi colonie, cioè territori che l'Italia fascista conquistò tra il 1940 e il 1943. Erano territori di occupazione a quel tempo, ma l'Italia avrebbe voluto annettersela, ed erano la Francia meridionale, ed erano soprattutto i Balcani, un pezzo di Jugoslavia, un pezzo di Grecia, e si guardava un po' alla Tunisia. Allora, i fatti, volevo dirvi e ricapitolarvi brevemente, l'impero coloniale italiano tra il 1861 1882, quando si conquista Africa, e 1943 è addentrato, come voi vedete, tra il Corno d'Africa e il Mediterraneo. Questi sono i luoghi e i fatti dell'espansione coloniale italiana. Ma chi degli italiani e delle italiane di oggi sa che c'è questo passato alle spalle? Se lo chiedete ad una somala, ad una eritrea, ad un'etiopica, ad una libica, ad un albanese, questo è la santa. Molte badanti, diciamo così, eritree, stanno accudendo i vostri nonni. Non so se qui a Vicenza c'è una comunità eritrea, ma in giro per l'Italia, per esempio, c'è una comunità molto forte. Le badanti eritree che accudiscono i nonni italiani lo sanno. Spesso i nonni italiani, certo i figli dei nonni, cioè i vostri padri, non è detto che lo sappiano. Perché? Perché abbiamo detto i manuali di storia non ne parlano. Che cos'è il colonialismo e il dominio coloniale? Le relazioni tra gli europei e gli altri popoli del mondo, da quando vi è una possibilità di movimenti di scambio, sono cosa delle relazioni, sono cose normali. Marco Polo non era più vicentino, ma insomma, veniva da poco distante, da Venezia, prendeva e si incamminava sulla via della sede e arrivava fino in Cina. E aveva relazioni con medio orientali, asiatici, cinesi. E lo stesso i mercanti delle città marinare dei primi secoli dopo il 1000 avevano normali rapporti con le altre civiltà del Mediterraneo, i turchi, l'impero ottomano, i musulmani. Perché queste relazioni non erano coloniali? Perché non c'era il dominio di mezzo. Perché la relazione si chiama coloniale nel momento in cui, diciamo così, l'erede di Marco Polo non solo passa dall'Albania o dal Medio Oriente, ma conquista l'Albania e il Medio Oriente. Quindi una relazione coloniale non è una relazione, diciamo così, tra civiltà diverse, ma è una relazione in cui una civiltà domina l'altra civiltà. Gli stereotipi, le barzellette, i dubbi, le paure tra le civiltà sono cosa, ahimè, normale. Basta governarlo, sapere che esistono. Ma quando questi stereotipi diventano coloniali e quando si moltiplicano e si rafforzano, quando c'è in mezzo il potere politico, il potere economico, anche il potere culturale. Perché quando gli europei conquistano il resto del mondo, esportano le loro chiese all'interno e impongono, tentano di imporre, la propria religione. Quindi cercano di cambiare non solo l'economia, ma anche le teste degli altri. Questa è una relazione coloniale. Che invece ci siano scambi tra i continenti e che insieme a questi scambi ci siano le amicizie, gli amori e anche i sospetti e gli stereotipi e i dubbi, questo è, ahimè, normale. La differenza è quando c'è un dominio, un potere. Quando, come nel caso italiano, il potere non è solo un potere liberale, come è successo per molti secoli, o perlomeno per gli ultimi due secoli in Europa, ma quando il dominio è di un regime totalitario, liberticida e fascista, allora il dominio coloniale fascista è più pesante. Un esempio? Voi tutti sapete che in questi giorni, nei giorni passati, nei giorni prossimi, l'Italia, l'Europa ricorda il giorno della memoria, cioè il giorno della liberazione del campo nazista di Auschwitz. Ricorda quindi l'obbrobrio della dominazione razzista, ma anche dello sterminio razziale. E voi sapete che l'Italia fascista partecipò a questo razzismo nazista fascista internazionale attraverso una legislazione razziale antisemita 1938. Questo forse un po' nei manuali di scuola c'è, forse lo sapete anche voi. Chi di voi sapeva che nel 1937, cioè un anno prima della legislazione antisemita, l'Italia fascista decreta nelle proprie colonie una legislazione razzista che non aveva niente da invidiare all'apartheid sudafricano, cioè alla massima separazione tra le razze. Il 1938, grazie al giorno della memoria e anche un po' alla retorica che lo avvolge, adesso è ricordato. Ma chi ricorda il 1937? Quando la legislazione razzista, fascista, impedisce contatti tra uomini e donne che non abbiano lo stesso colore della pelle. Chi ricorda in Italia che nel 1937 per legge un italiano doveva guadagnare più volte, almeno 3-4 volte, di un africano? Chi ne ricorda queste cose? Purtroppo poche persone. Allora voi capite quando è che una relazione del tutto normale di contatti, anche di scontri tra civiltà, diventa invece una relazione coloniale, è una relazione di dominio. E l'Italia partecipò di tutto questo. Partecipò in maniera, come dire, passiva, dall'inizio del 400 fino alla metà dell'800, per lunghi 4 secoli, e vi partecipò in maniera attiva, governando colonie, governando africani, qualche cinese, qualche greco dell'Egeo, qualche albanese, governando africani per almeno 60 anni, dal 1882 al 1943, e distinguendosi all'interno di questi anni, soprattutto negli ultimi anni, per un razzismo istituzionale, quindi non solo stereotipi, dubbi, parole, barzellette, ma leggi che cambiano a fare cose. Perché? Lo capite bene? Perché quando c'è una legge razzista, chi infrange quella legge dal punto di vista, diciamo così, degli altri, viene sanzionato. E allora anche chi non è convinto che la differenza della pelle non conta niente, anche chi non è convinto, deve comportarsi, perché c'è una legge e lo impone. Abbiamo detto qualcosa appunto sull'Italia che partecipa quindi in maniera passiva, respirando questa atmosfera coloniale che circola in tutta Europa per 4 secoli, e in maniera attiva per una 60 anni, che sono pochi. Ripeto, non aggraviamo mai le cose. L'impero coloniale italiano è una piccola cosa rispetto agli altri grandi imperi, ma noi non ne siamo esenti come italiani. È piccola, ma c'è stata. Dire che non c'è stata è da ignorarsi di storia, e quando qualcuno vuole ignorare la storia bisogna subito chiedersi perché lo fa. Una delle spiegazioni è perché questi che negano un passato coloniale, che lo ignorano perché non lo sanno, perché negano l'esistenza, lo fanno perché hanno in mente un'ideologia, uno stereotipo, quello degli italiani, anche lei italiana, brava gente. Cioè noi saremo bravi comunque, a prescindere, avrebbe detto il comico Totò. Gli italiani brava gente dappertutto. Gli italiani brava gente in senso relativo, rispetto agli inglesi, che sono negli stereotipi coloniali del tempo, sono degli avidi sfruttatori, dei francesi che vogliono tutti francesizzare, che vogliono tutti assimilare alla propria repubblica francese. Gli italiani no, gli italiani sono brava gente, non sfruttano nessuno, sono un paese povero, invece di credere un paese ricco, diceva Mussolini, plutocratico. Gli italiani sono brava gente, non sfruttano e hanno buone relazioni, sanno avere buone relazioni con gli altri, anche con i loro soggetti coloniali, con i loro dominati coloniali. E noi abbiamo qualche dubbio che sia così. Non perché, lo dirò più avanti, da il mito e l'ideologia degli italiani brava gente che sono bravi comunque, si debba per forza correre all'altra parte e dire che gli italiani sono mala gente dovunque. Perché non è vero, questo sarebbe uno stereotipo. No, l'importante è conoscere la storia, che è sempre molto articolata. È difficile trovare il bianco tutto da una parte, il bene tutto da una parte e il male tutto da quell'altra. La storia è molto differenziata, proprio perché differenziata è difficile dire che gli italiani sono sempre stati brava gente. Vi faccio alcuni esempi che probabilmente non stanno dentro i libri, e che ripercorrono un po' questa storia di 70 anni dell'impero coloniale. Sono alcune pagine oscure, ci sono anche le pagine più chiare, quelle le vediamo qui. Gli italiani appena arrivano in Eritrea, sono pochi, non conoscono l'Eritrea, devono governarla con la forza militare, e al minimo accenno di resistenza cominciano a fucilare i loro avversari, i loro resistenti, diciamo così, indigeni, africani. Le fucilazioni in Eritrea sono un fatto storico documentato. come è documentato che in Somalia invece, dove gli italiani erano pochissimi di fronte a un grande paese, poco popolato, ma un grande paese, gli italiani abbastanza presto adoperarono il lavoro coatto dei somali, cioè costrinsero i somali a lavorare nelle piantagioni, ad esempio nelle piantagioni di cotone, a quel tempo e più avanti negli anni 40-50, le piantagioni di banane, costrinsero i somali a lavorare con forme di lavoro organizzato e coatto. Lavoro coatto per intenderci significa che o tu lavori o io ti cucino perché non lavori. Quindi insomma, nel 1911 in Libia gli italiani arrivarono pensando che la conquista della Libia sarebbe stata facilissima. La Libia a quel tempo era dominio turco, ottomano, e gli italiani pensarono, andando in Libia, che sarebbero stati accolti come liberatori. Ah, questi italiani liberali che ci liberano dagli ottomani, dai turchi, pensavano. In realtà una resistenza anticoloniale e anti-italiana si sviluppa subito in Libia, gli italiani cominciano a deportare dalla Libia nelle prigioni italiane migliaia di cittadini. E nel 1915, per combattere questa continua resistenza anticoloniale libica, fucilano senza alcun processo, a quel tempo queste cose furono definite eccessi delle truppe, cioè combattimenti, comportamenti un po' eccessivi. Nella conquista dell'Etiopia 1935-36, l'Italia fascista, che nel 1927-28 aveva firmato un trattato che impediva l'uso dei gas, benefici, l'uso dei gas mortali, la prima guerra mondiale aveva sviluppato un odio dell'opinione pubblica contro i gas, e l'Italia fascista firma questo trattato, nel 1935-36 utilizza i gas contro l'Etiopia per battere le forze armate etiopiche, facendo quindi quello che si chiamerebbe un crimine internazionale, cioè un'infrazione di un trattato internazionale. E poi ancora nel 1937, come abbiamo detto, decreta, soprattutto in Etiopia, ma la cosa aveva conseguenze anche in Libia e nelle altre colonie, una legislazione razziale. Gli uomini bianchi non potevano avere relazioni con donne etiopiche, tantomeno uomini etiopici potevano avere relazioni con donne italiane. Relazioni. Si arrivava anche alla follia. Quando ad Addis Abeba fu costruito il palazzo del governatore, le scale del palazzo del governatore italiano fascista in Etiopia erano fatte in modo che ci fossero scale per bianchi e scale per etiopici, che non si vedevano tra di loro e non dovevano vedersi. Italiani brava gente. Allora, se noi mettiamo questi episodi insieme, è un po' difficile dirlo. Italiani peggiori degli altri europei? Direi di no, perché il colonialismo, gli stereotipi razziali erano diffusi in tutti i paesi coloniali, con delle diversità. Certo, l'inglese, il governatore inglese, il colono inglese che governava l'India o il Sudafrica, aveva dietro di sé una straordinaria potenza industriale. L'Italia, l'italiano, liberale o fascista, non aveva dietro di sé questa grande potenza, e quindi forse anche per questo doveva ricorrere a un eccesso di forza. Però gli stereotipi coloniali, il meccanismo dell'ideologia coloniale e del dominio coloniale era uguale in tutta Europa. Quindi italiani non peggiori degli altri, ma nemmeno, è difficile dimostrarlo, molto migliori. La legislazione razziale antisemita in Italia fu qualcosa di terribile, perché soprattutto durante la seconda guerra mondiale portò allo sterminio del popolo ebraico di Europa. Quasi un terzo degli ebrei residenti in Europa furono uccisi. Ma in Italia gli ebrei erano poche decine di migliaia. maggiore assurdità di una legislazione italiana fascista antisemita. Ma teniamo presente questo e teniamo di conto che la legislazione anti-indigena, come si chiamava allora, la legislazione razziale nelle colonie, interessava milioni di africani, di libici, di etiopici, di eritrei, di tutti. Certo, c'è una differenza tra il razzismo coloniale e il razzismo nazista antisemita. Che Hitler voleva, e riuscì, ad ammazzare un terzo degli ebrei d'Europa. Nessuna potenza coloniale aveva alcun interesse ad ammazzare i propri indigeni. Li doveva sfruttare nel lavoro coatto, li doveva sfruttare nelle risorse. Non aveva nessun interesse al genocidio, anche se atti di genocidio. L'Italia coloniale quindi non peggiore, ma nemmeno migliore delle altre potenze coloniali. L'Italia coloniale solo di mala gente? No. Perché un'interazione tra i popoli, tra le civiltà, ovviamente c'è anche sempre qualcosa di buono. Ma è sospetta, voi capite, l'ideologia che dice che l'Italia ha esportato fuori dal proprio paese, dalle proprie colonie, solo benessere, civiltà, chiese, strade. Sulle strade si è fatto un grande parlare. L'Italia ha portato le strade in Libia, in Eritrea, in Etiopia. Ma chi si ricorda che quelle strade servivano anche come strumento di guerra? Le strade in Libia, che andavano dalla litoranea libica, che andava dalla Tunisia all'Egitto, serviva l'Italia fascista per poter attaccare la Tunisia francese e l'Egitto inglese. Le strade in Etiopia servivano per controllare l'Etiopia, un grande paese. Quindi non era solo un regalo di civiltà, era uno strumento di dominio. Oggi la storia spesso si fa nei giornali, alla televisione, ricorrendo al gusto dell'orrore. Quello che fa veramente orrore si ricorda. Quindi le guerre mondiali sono un orrore, quindi il genocidio antisemita è orrore, si ricorda per questo e non perché fu una cosa terribile. Anche il colonialismo talvolta è ricordato come un orrore. Io non credo sia così, non è solo questo. Insieme alle strade ci furono le strade, ma ricordare solo l'una o l'altra non funziona, ci ricorda solo un pezzo di una. Ricordare solo un pezzo della storia non ci aiuta a capire perché nei pensierini dei vostri amici poco più grandi di voi, cioè di quelli degli anni 90 intervistati da Paola Tapert, volume esce nel 1997, perché ancora loro albergavano le eredità degli stereotipi coloniali e perché quegli stereotipi vivono ancora oggi. Io lo dico da storico e da cittadino. Voi avete sentito che in questi giorni ci sono dei dibattiti accaniti. L'Italia ha per la prima volta una ministra che non ha il colore bianco della pelle. In altri paesi democratici questa cosa avveniva da anni, era una normalità. Per l'Italia era una normalità. E allora quando io sento che un deputato, anzi una deputata, protestando di essere accusata come la giusta, dice, ma no, lo dicevo scherzando, lo dicevo a fin di bene. Quando un membro del Parlamento della Repubblica Democratica Italiana dice, irridendo a questa ministra, ma lei almeno, queste le cose che avete letto, sentite in questi giorni, lei non deve truccarsi la mattina, ironizzando sul colore della pelle, come se il colore della pelle avesse una rilevanza. Questo è il punto tragico, questa è l'eredità coloniale. Allora noi capiamo che il colonialismo non è del tutto finito. Certo, quella frase lì, che non è una frase gravissima, è una piccola sciocchezza che qualifica la persona, ma se quella piccola frase, ci pensate un po' tutta, voi dietro ci vedete un mondo, ci vedete 5 secoli, mezzo millennio di dominio europeo, ci vedete degli stereotipi che il colonialismo ha rafforzato, e ci vedete dietro forse le strade, ma ci vedete anche le strade. Questi sono gli strascichi postcoloniali, le eredità postcoloniali del colonialismo. eredità ci sono di tutti i tipi. Ci sono eredità di contenzioso diplomatico, ci sono eredità del fatto che gli altri ricordano e noi non ricordiamo più, c'è il fatto che su queste vicende c'è un silenzio alla televisione, nei manuali di storia, nei libri di storia, nelle ricerche. Ma il silenzio cosa copre? Copre il fatto che ci siamo lasciati alle spalle questi stereotipi, che è una storia lontana come quella dell'antico impero romano? No, perché gli stereotipi sono ancora attivi e sono dei germi pericolosissimi. È un meccanismo mentale, perché non c'è più il dominio politico, perché il Congo si autogoverna da solo, anzi il Congo esporta una dottoressa, la appunto dottoressa Pienghe, che adesso è una ministra della Repubblica Italiana. Quando voi andate a Parigi, se ci andate e fate un viaggio, tra le altre cose che fate, probabilmente andrete a mangiare un couscous. Se vi piace, poi c'è a chi non piace il couscous, chi piace solo la pizza, e c'è l'italiano che gira tutto il mondo mangiando solo la pizza in tutti i ristoranti del mondo, che è un'idea geniale, no? Dell'apertura culturale. Uno va e mangia quello del nostro paese. Ma se andate a Parigi e mangiate il couscous, interrogatevi un po', chi ha vinto? Ha vinto la Francia esclusivista, cioè la Francia che dominava l'Algeria, o culturalmente ha vinto l'Algeria che ha esportato il ristoratore algerino, che ha aperto un ristorante di couscous, per esempio, nel quartiere latino? Nel lungo periodo, chi ha vinto? Certo, se noi lasciamo che vincano solo gli stereotipi, è un disastro. Questi stereotipi poi si riattivano, guardate bene. L'Italia e l'Inghilterra, sto finendo, l'Italia e l'Inghilterra sono abituate da secoli, o quantomeno da decenni, ad una immigrazione da sud. In Inghilterra ci sono colonie di terza generazione, qualche volta già di quarta, che vengono dall'India, dal Pakistan, che sono ormai con complicati problemi, ma sono integrati in quel paese, fanno parte di quel paese, sono cittadini di quel paese, con difficoltà evidenti, ma ci sono. Non so se qualcuno di voi ha visto un film di qualche anno fa, simpatico, allegro, ma che metteva in evidenza una grande sofferenza, ma anche una certa integrazione. Si chiamava Sognando Becca. Era la storia di una ragazza che sognava di, Pakistan, sognava di poter giocare a calcio, calcio femminile. E poi ci riesce, a suo modo. Quindi l'Inghilterra è da decenni abituata a una immigrazione da questi paesi. Lo stesso la Francia, ripeto, il ristoratore algerino è da decenni che sta a Parigi. In Germania i turchi, che sono venuti come manodopera, ricordano un po' questo dominio economico, in questo caso coloniale. Quindi molti paesi d'Europa sono stati abituati da decenni ad una immigrazione, noi no. Da noi l'immigrazione che non sia dal sud Italia è cosa degli anni 70, i primi anni 70, i primi rifugiati politici dalle guerre del mondo venivano in Italia perché se la sognavano come un paese democratico e accogliente, e poi dopo, negli anni 80, hanno cominciato ad arrivare generazioni di persone che vogliono lavorare in Italia o che vogliono passare in Italia per andare a lavorare in Germania, in Francia, in Inghilterra. Quindi per noi è cosa più recente. Questa immigrazione, ripeto, rinfocola vecchi stereotipi. Nel silenzio alberga quel sonno della ragione che, come dice il filosofo, può generare molto. Allora chiudo dicendo questo. Questa conferenza, questo ciclo di conferenze si intitola Crimini della memoria. Io non voglio riassumere la storia dell'espansione coloniale italiana sotto il termine crimine, sarebbe un straordinario errore. Non ci sono solo le strade, ripeto, ci sono le strade, ci sono decenni di convivenza, però ci sono anche quelle. E il crimine della memoria è dimenticarlo, cioè dimenticare una pagina, la storia coloniale italiana, dentro la storia coloniale europea, dimenticare che dentro questa pagina ci sono pagine simili a tutte quelle degli altri paesi, ma anche pagine specifiche, e il crimine della memoria è non avere memoria. Basta sapere che quella è una pagina vecchia, lontana da noi, che non conviene oggi riaprire, a meno che voi non vogliate essere vecchi, se voi non vogliate pensare come i vostri bisnonni, perché alla radice poi questo è. Se voi volete guardare al futuro, guarderete a un'Europa più piccola, meno potente, in mano all'Asia, all'Africa e all'America Latina. Se volete pensare come i vostri bisnonni, nemmeno i nonni, pensate come si pensava al tempo della legislazione antisemita e nel caso specifico, anti-indigeno della legislazione razzista coloniale. Se volete fare i vecchi, potete fare un minuto. Io non ve lo consiglio. Grazie. Buttato via quel libro, non ricordo come si chiama, un libro di storia sull'Africa, sulle colonie, su qualcosa del genere. Sapete, vedere dei tarpini che Giacomo guardava, gli piaceva tanto, diceva, sarebbe